lavori. Ritornano i pastori. E dopo il tetto contorno. Calmi! Cose che colpi, avremo. Ma se tu l'hai, se verte salvo il grano, taci il nome. Vedremo, vedremo. Servile. se potea domar l'orgoglio, or ti lascia in difesa e al tuo cordoglio. Amica gente ne circonda, o oh, quanto ne ride Fausto il ciel. Pastor pietoso, se il mio pregare molesto non ti scese al cor, breve riposo al lasso pie concedi. Offre il mio tetto asilo alla virtù, che langue oppressa e sarà vostro scampo. Un infelice che reclamò la mia pietà vi accolsi or son selune, e rispettarvi piaccia il suo dolor. Stelle! All'albergo fu li guida Enrichetta. Oh, quanto grato mi è tale incarco! Oh, or sì, amico, un sorto da questa mar degna mercede avrai. Frenati per pietà, tremar mi fai. Amici, alla campagna! Oh, quanto lieto or sei, Guglielmo! Allora son pago di me stesso, quando ciò varchi geme, e a me permesso. Colei che muove verso il maggior tugurio, e in mentite divise della consorte del fuggitivo Alfredo. Ehi, di Edoardo il suo compagno. O ciel! Dei passi suoi, un tuo cenno mi rese vigile spilorator. Guardinghi, e quando l'orror notturno il lor cammin facea men periglioso, entrambi da Londra usciti a questa valle ansanti giunser poc'anzi. E a quale oggetto? A forse di Alfredo in traccia? E in quel recinto ai quale mi si desta pensier. Vieni, s'adopri pria dell'armi l'ingegno. Risponda, amica sorda, al tuo disegno. M'ingannai, la pelle ahimè, palese, forse la silda al freno e al fier danese. Dunque sperai d'avversa stella placar lo sdegno e ad opportuno istante serbar la mia vendetta. In van celato, in rustiche divise, a me di reggia serve tugurio umile. Io ceda alla destra alle ritorte, morire saprò, saprò cadere, saprò cader da forte. Batte il mio valor, no, se disprezzarlo intrepido, lo provocai finor, non è di morte il fulmine che abbatte il mio valor. Se disprezzarlo intrepido lo provocai finor, se disprezzarlo intrepido lo provocai finor, intrepido lo provocai finor, sì, sì. Altra mercè, io non chiesi a Rio Martir che appressar, o sposa a te, rivederti e poi morir, ma dal tuo sen, amato ben, per sempre in volo, fato crudel, amato ben. Amato ben, per sempre in vola mi, per sempre in vola mi fato crudel. Non che ad opprimermi, non hai più affanni, poi ne sonavi nel nemico cielo. Non che ad opprimermi, non hai più affanni. Mercè. Io non chiesi che a Rio Mar partir che appressarmi. Io sposo a te, rivederti e poi morir. Ma dal tuo sé, amato ben, per sempre in vola mi fato crudel. Amato ben, amato ben, per sempre in vola mi, per sempre in vola mi fato crudel. No chiamo primer, non è che affan, no, no, no. Inesorabile nemico ciel, no che ad opprimermi non è più affanni. Inesorabile nemico ciel, inesorabile nemico ciel. Fiero stato il mio, deggio celar me stesso ad ogni sguardo, né posso coi sospiri pascere almen gli atroci miei tormenti. pura, senza tema o ambizion, pace qui regna. Importuna non sembri a voi l'inchiesta mia, quell'infelice che Guglielmo qui accolse, dove e suoi pensieri immerso, suol celarsi ogni ora di questo albergo al lato opposto. E quali son le sue vesti di pastor? Ne sai altro di lui? Ah, qual ragion ti rende sollecita a saperlo? Talvolta porgi amico sollievo a quella cange il cor perusa cura di veder con l'altrui la sua sventura. Tutto di lui mi è ignoto, agevol sempre non è il vederlo o il favillargli. Ei fugge dal nostro sguardo, è un infelice e merita rispetto il suo silenzio. Io riedo intanto al buon Guglielmo e pria che cada il giorno, sollecito il vedrete a voi intorno. Veggo là due stranieri, oh, qual nuovo cimento. Ah sì, Edoardo, in quelle pastor s'asconde lo sposo mio, bel decennieto presentimento. O ciel, qual voce? Ebben, ove si cela, arditi penetriam. Edoardo, a sposa! Ah, non mi inganno! Ah sì, pur ti rivedo! Grazie pietoso nome! Amalia, Amalia! Il barbaro rigor al fatto. perdono il suo rigor. Sperar potea, si amabili ritorne. Chi mai sperar potea, si amabili ritorne. Per mi arrivi star, oh, ti sento. già in petto, ti sento, sì, il mio cuore, in fiamme il mio cuore, c'è di gloria, d'amore, già in petto, così mentir potessi, ora men grave allora il periglio d'Alfredo. E a rintracciarlo nel mio sol intento, l'implacabil danese. Un delatore giura che qui si asconda. In Anglia nacqui, son sacro al mio dover, il fausto caso che le ricerche ostili a me fenote. Profittiamo, pastor. Son tre infelici che qui raccolsi. Ah, se fra questi è Alfredo. Facchio lo vecca, e allora? E ben m'attendi, riedo con essi a te. Propizia o sorte, arridi al mio disegno. Orion nemico, tu finor deludesti la vigilanza mia. Venite, amici. Ed esso io lo rapito. Arte m'assisti. O grande, o pro d'Alfredo, e tu al tuo piè. Ti ascolto. Io son perduto. Voi? Sire, in quelle vesti... Ah, taci! I miei voti son paghi al fine! E tu chi sei? Britanno, e date figo, e profugo per te! Fuggi, fuggi, e già noto al danese il tuo asile! Stelle! Oh, sventura, sarai lor preda! Ah, no, da queste mura io sottrarvi saprò! Breve oscuro sotterraneo sentiero, ammesso il noto in seno della vicina valle vi esconderà, finché la notte amica vi aprirà nuovo scampo. Atto la vita, salva di tanto eroe! Vigile intanto osserverò se la vicina gente si appresta a questo albergo. Io sono in porto. Oh, qual momento! Il ciel mi ispira, io volo alla selva qui presso, ove celate son le tue schiere, e nella valle in breve raggiungerti saprò. Pastor, ti renda mercè del ciel, morir del mio sovrano, qual gloria fia per me. Venite, Alfredo, come guardi e sospiri. Ah, per te sola, orme grave il rigor dell'empio fato. No! Thank you. Sangue e sete, e quanto compi il seno. Thank you. sventurato, a questo tetto in seno ritorna il freno. Oh, fortunate mura, serbate a tanto onor. Guerriero arnese, Eduardo a lui recò. La bella speme d'una vittoria, oh, come fa esultare la reina. Il ciel pietoso che nel rio tradimento ordito dal danese al suo consorte offrì scampo e difesa, avvalorare saprà sì giusta impresa. Guglielmo, amici, il vostro prince attende del valor che v'accende. Non dubbi e prove, a vendicarsi vada la patria oppressa, il vostro re. Chi l'ire può frenare dei tuoi figli, all'armi corre la robusta, adulta e vecchia etame. Di tal campione al fianco, eroe diventa il vile, il debil forte. E ognun gridando va, vittoria o morte. Alle mie pene obblio, se così bel compenso il ciel vi rende. Va, buon Guglielmo, e i fidi tuoi raccogli nella foresta, ove Eduardo in breve guiderà le sue schiere. In mezzo a voi verrò fra poco. Il prezioso istante, ah, quanto affretta il fervido desire. È scritto in cielo il tuo trionfo, o sire. Oh, come un sol momento tutto cangia per me. Sian grazie nobi, riedi andarmi. L'augusta fronte di me sta rifulge, e tutto in noi, tutto, tutto. Averio sposa, si bel presagio il cielo. A me concedi che il fianco nermi ancora cieco del brando io stessa. Ah, di tal dono degno a te tornerò. Contento io sono. Questa manche un dì sull'ara cara. Oh, vittoria, a me sei cara. Che va in campo ad affrettar un compenso si felice che va in campo ad affrettar che va in campo ad affrettar oh vittoria a me sei car Thank you. scendi a quest'alma speranza di calma, di dolce piacere. Sì, la tromba ti invita, la bestia ti chiama, ti affetta, ti addita, ti gloria a sentir. Oh, quanto gradita, oh, quanto gradita, speranza di calma, di dolce piacere. Oh, quanto gradita, anche a lui. Anelasteo Britanni, dirmi mirar l'eroe che fra le pene visse lungi da voi. Giuraste meco di vendicarlo. Ebben, l'istante è giunto di renderlo al suo trono, di franger le catene alla patria infelice e del nemico abbatter la baldanza. Vendicatelo, figli. Il re s'avanza. Elettrica scintilla, cuore libero e bello. al generoso ardire, al bel desio di gloria che in quei sguardi traluce. Fia debole contrasto, orda feroce, avvezza solo a rapine, al prisco onor d'Albione. Trionfi il genio ed il danese infido, e sull'anglico lido audace s'inoltrò, che ovunque imprime orme di crudeltà, di folle orgoglio. Trovi la tomba ove sperato hai il soglio. E più si tarda disputar, a disputar, a disputar, a disputar, a disputar, a disputar. venne mai. Favella! Un disperato ardire dalla sediate mura sull'osta ormai sicura i fili tuoi scagliò. Oh cielo! Oh, quello bella! Favella! Favella! Al rapido corrente non sa trovare difesa e rapida sorpresa dall'impeto repente fuggi di spere saltate spavento orrore la invade. Buongiorno, oh, qual piacere chi tanto deste voi che più si tarda amici all'arco ecco il momento del fortunato evento, si corra approfittar. Sì! Se questo amico lume del tuo favore è un segno, l'ardito mio disegno ti piaccia secondar. Se questo amico lume del tuo favore è un segno, l'ardito mio disegno ti piaccia secondar. L'ardito mio disegno vi piaccia secondar, sì, secondar. Sì, sì, vi piaccia, sì, vi piaccia il mio disegno, come lo mia secondar, sì, sì, vi piaccia secondar. Giusto suo disegno e più si tarda all'ardito. All'altro la vittoria s'affretta a disputar. Oh, raggi dell'armi nostre, in perdite e trionfi. E chi potea preveder del Britanno avvilito e conquiso il disperato ardir morto improvviso? Ah, che mio inganno! E la regina colei che qui si inoltra? Il mio potere cada l'incauta. Invanto mi resisti, diletta amico, i polpiti di morte. Lunge dal mio consorte, tollenor non possio, ma del tuo sposo mal servi al cenno, e dal più fier periglio te stessa esponi. Accangio mai consiglio. Arresta, madre! Stelle! Vile aggressor, che brami! A te non giova l'intempestivo ardir. Mia preda or sei, e più non fuggirai. Allacci miei! Vedi alle tue ritorte! Saprò cantare! terra. Qual sorpresa è questa? Come pensate questa? Oh, che pensate? Alfredo, mal rispondesti o ingrato. Or dall'estremo fato, chi mai ti salverà? Chi mai ti salverà? Chi mai ti salverà? Si sente lo soffreno, sia di catene avvinto, da suoi rimorsi vinto, da suoi rimorsi vinto, che far non so, al mio coraggio è spento, al far non so, il mio coraggio è spento, al far non so, per far non so, per far non so. Dal vortice oppresso un vento impetuoso, dal vortice oppresso un vento impetuoso, I'm Prinz mi reca qualche novella, al nome sol d'Alfredo, che quel fulmin di guerra ritorna in campo, e timido è se morrido, fugge il danese, e scampo alcun non resta al suo destino. Vecco al suo trionfo saprè sal vincitor, a chi potea temer tanto il rigor di stella rea. Lo sconfitto danese, né più o oserà di rinnovar le offese. Ah sì, a vostri sudori cogliete, amici, i ben dovuti allodi. Queste braccia ho sposo. Amalia, al fine posso lieto abbracciarti. Oh, buon Guglielmo, oh, fine Eduardo, al vostro affetto Alfredo deve il trono e la vita. Il dover mio. Signor, che dici? Ah, più di me beato sulla terra non va. Giorno più lieto non sorse ancor. Noi siamo ben felici. E a così cari accenti che chiamano sul ciglio di tenerezza il pianto. Tu mi guardi, o consorte, e taci intanto. Oh, Quanto assai di bella la sua serenità.